Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8:19 minuti in punto, caro Oscar Giannino, punto. Ma io, santità, come santità la... sono cardinale santità. Solo. No, adesso... no, Dalai Lama, sentito Dalai Lama, santità d'ora in poi. E qui sua santità. Sia vostra santità, sì. Loro santità. No, perché vedo che oramai stiamo veramente andando verso una grande gradi successivi di divinità. Questo è sì. Mago Telma convocato. Questo è... No, vabbè, adesso spieghiamo agli ascoltatori. Gli ascoltatrici hanno deciso che una mi ha detto Dalai Lama. Il Dalai Lama dell'Occidente. Dalai Lama, beh, bellissimo. Beh, ma comunque bellissimo. È il titolo che un principe della pace, quindi magari ce ne sarebbe bisogno, diciamolo. Vabbè. Allora, io a questo proposito, i santi. Oggi abbiamo un bel po' di santi particolari, perché primo, vedi la grandezza a volte del Signore, della Chiesa, anche per chi non ci crede. Pensa, nel 600 a Corleone, avendo capito che Corleone avrebbe avuto problemini un po', ha beccato un tipo che era lesto di spada nel 1600, e questo problemino che spesso gli giravano le scatole e infilzava qualcuno. E infilzava, e lo ha mandato in crisi di fede ed è diventato santo, poi cappuccino, un po' come si legge poi nei Promessi Sposi, Bernardo da Corleone. Dopodiché però ci sono anche Bernardo, tanti... peraltro, proprio come un Bernardo. Hai capito? È quello che mi colpisce. Purtroppo. A volte uno dice, ma ci sarà, perché ci sono delle coincidenze. Ci sono anche tanti santi da nome singolare, per esempio Santa Cesira, che non è una patrona dei DJ, però Santa Cesira di Arcadio, Tigrio ed Eutropio. Tigrio. Martire dell'inizio del V secolo, Tigrio ed Eutropio, Eterredo di Rielvaux, Martino di Leone, e anche un Ferreolo. Quindi vedi Ferreolo. Quanti nomi ci sono. E magari c'è qualcuno che si chiama così, vorrei conoscere un Tigrio. Ferreolo un... di Grenoble, sì. Santa Cesira però non è male. Non è male, non è male. Allora, caro Oscar, lo sai che il governo deve entro il 17 gennaio revisionare i reati previsti dal codice penale civile? Beh, io mi auguro che non facciano una frenata come stanno facendo su quello di immigrazione clandestina. Devono vedere se depenalizzare alcuni reati. Quello sull'immigrazione clandestina ha creato molto scompiglio già cambiato politico. Lo sai che se vai per mare e soccorri un clandestino ti becchi il favoreggiamento penale? Certo, nonostante la prima legge del mare sia soccorrere chiunque. Però te lo becchi. È chiaro. Ma poi adesso l'ultima novità è questa: potrebbe diventare non più reato, ma illecito amministrativo, guidare senza patente. Sia ben al chiaro, seguito. Senza patente al seguito, cioè non è che non avete conseguito la patente. Guidare senza patente, ora è reato. Giustamente non reato, perché, spieghiamo agli ascoltatori, si pagheranno fior di migliaia appunto, di euro di sanzioni. Cioè, minimo di 5.000 euro di sanzione amministrativa. Tu che dici lo Stato trova sempre modi per raccattare i soldi, ma questa è una vergogna. Cioè, mi beccano, ho dimenticato la patente a casa, mi becco 5.000 euro di sanzione. Ma 5.000. Capito, ma non sottovalutare che far aprire fascicoli penali nelle procure costa. Certo, capito? Costa è tempo. Quindi, cancelliere, e non ha senso costruire un reato penale, no? D'accordo, questo... ma non puoi mettermi perché mi sono dimenticato a casa il portafoglio. A me è capitato un paio di volte, il portafoglio dimenticato a casa, guidato senza patente. Adesso mi becco 5.000 euro, 5.000 euro per questa dimenticanza del portafoglio. Sentite, io lavoro per la rivolta fiscale, io voglio che queste cose lo Stato le approvi, così finalmente ci si trova in piazza un po' di gente. Vabbè, tu lo vuoi, proprio per io questo. Io sono d'accordo con te, Adriana della Baduta, che il livello le sanzioni, che come sempre serve a commisurare, perché nessuno dica ma allora non è più un reato penale, tutti quanti vogliono i reati penali, il mondo delle grandi mansioni, e allora si gonfia l'entità della sanzione amministrativa. È ovvio che 10.000 euro o 5.000 euro non hanno tra senso, da 5 a 30.000 euro, quindi potrebbe capitare 20.000 euro, 100.000, 10 anni di stipendio. Ma vi rendete conto quanta gente può essere messa in rovina perché ha dimenticato il portafoglio a casa? Chi fa le leggi in Italia, Alessandro? Questo è il punto, la povertà assoluta, questa specie di deserto del Sahara che è il legislatore italiano. No, creto, come direbbe qualcuno. Comunque 800 24 00 24, vogliono depenalizzare, bisognerebbe è giusto depenalizzare, ecco questo vi chiediamo, nel senso che alcuni reati che poi portano a ingolfamenti nelle procure. Il primo è proprio quello di immigrazione clandestina. So che è molto delicato come argomento anche politicamente, però il dato di fatto è che tutti quelli che beccano questo tipo di reato poi non succede niente, non esiste un condannato per immigrazione clandestina. No, costringiamo però le procure a riempire decine di migliaia di fascicoli inutilmente, perché le procedure stesse con cui funziona questo reato voluto dalla Moroni nel 2009 lo rendono inapplicabile, perché la procedura straordinaria, che è quella che era stata presentata per mandare tutti espulsi, siccome in realtà lo Stato da una parte scrive questo, dall'altra chiude gli occhi su migliaia e migliaia alla videoidentificazione, e rende impossibile esattamente quello che la legge si prefigge, scritta apposta per questo, pazzesco. C'è ovviamente l'ascoltatore che dice: ma che dici Milan, il penale c'è per chi guida senza aver conseguito la patente? E beh, te credo, quello rimane. Stiamo parlando di chi si dimentica la patente a casa, chi guida senza patente al seguito. Perché se l'ha dimenticata non è più un reato, ma a meno si sta discutendo, potrebbe diventare solo un illecito. Poi ci sono anche reati interessantissimi, come per esempio depenalizzare gli atti osceni in luogo pubblico. Cruciani, finalmente non rischi l'arresto, cavolo! Oh. Questo non è male. Però Cruciani rischia per atti osceni in luogo pubblico un minimo di 5.000 euro di illecito amministrativo. No, conoscendo Giuseppe preferisce il penale piuttosto che pagare. Dice: datemi il mio giudice, vado in galera, pubblico ministero. Dov'è? Dai, dov'è? Stiamo scherzando. A proposito di processi, sul Fatto Quotidiano, un'altra chicca di questo meraviglioso principe della Chiesa, che è il Cardinal Bertone, costretto ad andare al piazzale Clodio. Nessun giornale italiano scrive naturalmente una parola, perché dai, siamo solo attenti a quello piazzale che è Clodio, buono, la procura di Roma, della Chiesa, piazzale Clodio, la procura di Roma, in questo processo dove lui naturalmente è costretto a dire: ma sì, perché c'era questa causa, mi hanno pressato a dire sì a questa transazione, 25 milioni di euro, ma che volete che come sia? 25 milioni. Sì, certo, a favore degli eredi, dei marchesi Gerini, ma io non avevo capito. 25 milioni non avevi capito? Oh! Ecco, i principi della Chiesa come Bertone che non capiscono l'importanza di 25 milioni di euro. Naturalmente io non ho l'obbligo come giornalista di non credere a questa versione dei fatti, e che il Signore sia misericordioso. Io credo al Signore, perché deve essere molto misericordioso. Se tu non credi al Cardinal Bertone, caro Cardinal Giannino, ecco, potremmo farti scendere di grado a Monsignore. Scendere di grado, però io che non si capisca l'importanza di 25 milioni di euro. colpo di tosse. Forse erano suoi amichetti quelli a cui avevi detto. Comunque, se volete chiamarci su questo, noi parleremo anche di queste le trivellazioni che stanno facendo tanto discutere. I referendari che stanno facendo capitolare Renzi. Ma la verità è che l'hanno stanno facendo capitolare, perché il blocco delle trivellazioni nasce governo centrodestra Prestigiacomo. Nessun paese ha questi blocchi sulle ricerche ed estrazione di materiale fossile, non ce l'ha nessun paese. Detto questo, nasce di lì, dopodiché si rafforza nel tempo, il governo Renzi nel 2014 sblocca Italia, cambia idea, si scatena un movimento referendario con tutti gli 8 governatori del sud del PD che depositano i quesiti per dire no, non si torna a fare l'estrazione e prospezione. Sì. Alla fine il governo in legge di stabilità è costretto, l'MLM zitto zitto, ad abbassare le bandiere di fronte ai referendari. E adesso però il problema è che la Corte di Cassazione ha fatto vivere dei 6 quesiti che hanno depositato, uno solo che però non tocca il cuore della questione, e ciò nonostante i referendari e gli 8 governatori sono lancia in resta contro il governo, perché si scopre che il ministro Guidi avrebbe autorizzato le concessioni poche ore prima della marcia indietro del governo, e siccome le concessioni date comunque restano, quindi una confusione, un caos. Confusione sotto il sole, ma soprattutto confusione anche politica, perché ci sono alcune regioni guidate dal centro-sinistra, come la Puglia, d'Emiliano, eccetera, che sono contro il governo. Tutto il sud a guida PD è contro il governo. Esatto. Ci sono regioni come Zaia, però Zaia è della Lega. C'è anche la Liguria di Toti. Cioè, delle 10 regioni, i 2 del centrodestra, tutto il resto è il blocco del sud del PD. Comunque, le trivellazioni parleremo tra poco. Poi mi ha incuriosito il fatto che il prefetto Tronca è tornato a parlare. Grande. Cioè adesso gli piacciono i giornali, tronca, evidentemente. Tronca. Nel Messaggero spiega. Ma no, perché lui sta tentando. Gli è toccato una delle tante patate bollenti che i sindaci di sinistra e destra hanno accumulato nel tempo a Roma, cioè che il cosiddetto salario accessorio in realtà copre fino al 41% delle buste paga dei dipendenti comunali, quindi non è accessorio per niente, del tutto svincolato dalla produttività. Indennità tipo il mezzo litro di latte per chi lavora in strada, la divisa pulita, eccetera, eccetera. Ecco, allora il prefetto Tronca, dopo che il MEF era intervenuto, Marino aveva tentato, i sindacati avevano respinto la proposta, a questo punto ha detto: caro MEF, sai che c'è? Mi chiudi il fondo per pagarlo. E da gennaio, cari lavoratori e sindacalisti, o accettate un vero salario di produttività, oppure voi i soldi non li vedete più. Sì, però io, come ho letto la sera stampa, mi sembra il principio è giusto, cioè che il salario accessorio sia legato alla produttività. Se no, perché salario accessorio è uno al salario di base e poi se è produttivo al salario accessorio, se no no. E invece fino a questo momento la prassi era quello di darlo un po' a tutti, come si danno i premi ai dirigenti pubblici, quasi metà dello stipendio. Bene, ma Tronca dice ora non sia più una regalia ma sia legata alla produttività. Mi viene da dire, in Italia, non per il principio giusto e sacrosanto, mi viene da dire auguri Tronca. Auguri anche a me. Auguri, però, Tronca. Per una volta va riconosciuto che Tronca parla con il linguaggio che non è quello dei politici. Certo, ecco. Il tentativo è giusto. Tra l'altro, Oscar, dobbiamo fare una rettifica. Io l'ho letto, giustamente i nostri ascoltatori mi hanno ripreso. Guarda che il reato penale, che non è più penale, ma diventa illecito amministrativo per chi ha la patente, no, proprio chi non ha fatto l'esame, chi guida senza patente proprio, non solo chi l'ha dimenticata a casa, chi proprio non l'ha fatta, non ha conseguito l'esame. E quindi, ecco perché le sanzioni sono così alte. Allora mi devo correggere io, però. Sì, sì. No, ma mi correggo anch'io. Pensavo solo per chi l'avesse dimenticata a casa, invece proprio per chi guida senza patente, disgraziati. Insomma. Però il principio è che non si capisce come mai così alte. Insomma, questo. Però in questo caso capisco di più. De 5.000 euro. Ma comunque, insomma, sentiamo però. Andrea dalla provincia di Livorno. Ci chiama Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti. Dica. Volevo far notare che è vero che con le molte depenalizzazioni, tra quali quella per il reato di clandestinità, si snelliscono le procure, si snellisce la parte penale della giustizia, però si ingolfa ancora di più quella civile. Quindi non è un dato secondario, se non sbaglio ora non ho i dati però, sotto mano, ma... Però ecco, su questo, siccome la riforma del processo civile l'abbiamo recentemente fatta con il tentativo di renderlo tutto telematico e così via, quella penale non ancora, quindi in questo anche c'è una logica. Naturalmente ha ragione che bisogna tentare di evitare il più possibile di ingolfarla la giustizia. Basta non fare reati allora, se per questo, cioè basta non, ho capito, non fare illeciti da parte dei cittadini, però da parte del legislatore, voglio dire, però che noi subiamo un effetto di tra virgolette penalizzazione, beh, è vero. Sì, questo sì. Grazie comunque Andrea. Anna Maria da Verona. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire a riguardo delle patenti, ma perché non la patente non viene messa in online come il bollo della macchina e mettere le forze dell'ordine possono avere accesso a un sito, a un archivio su internet e controllare se quando ferma una persona ha il bollo e la patente Ho capito, ma se uno non ha i documenti con sé e non possono Ho accertare... capito, però la patente non è un documento d'identità, la carta d'identità sì è un documento d'identità, ma la patente non è che passa come un documento d'identità. Il mio dubbio è questo, se la fermano in auto e lei non ha alcun documento, come fanno a sapere che lei si chiama Anna Maria? No, io ce l'ho. Io ce l'ho, certo. Carta d'identità devo sempre averla, ma la patente come il bollo della macchina si mette in online e le forze dell'ordine controllano se è tutto a posto, ce l'ha, se è scaduta, non è scaduta. Ma quello che lei sta dicendo in realtà è proprio il principio in base al quale il Ministero delle Infrastrutture, ne abbiamo parlato ieri, ha autorizzato le famose multe a strascico, che sono esattamente sull'idea che una pattuglia del municipale, perché questo dovrà essere presente, il vigile urbano comunque quantomeno, fa una fotografia della targa dell'autoveicolo e per l'autoveicolo, quindi non per l'identità personale o per le i documenti personali di chi li guida, ma per tutto quello che riguarda l'autoveicolo, l'assicurazione, il bollo e così via, a quel punto si va a verificare e si fa multa. Certo, per tutto. Ma anche perché online c'è, nel senso, non è che c'è il registro, non è che sono banche date diverse, ma sì, comunque è chiaro, si interfaccia. È chiaro, non è che la polizia non possa controllare la patente, basta che fanno un controllo e i dati li possono accedere a questi dati. Ci chiedono via WhatsApp se ha la scorta tronca. A detta di tronca no. A detta di tronca non ha l'autista nemmeno. No, non ha l'autista. Quindi ha detto, sono rimasto interdetto. Non se so lui dice di andare di da Milano a Roma in autostrada, c'è il treno, però vabbè. Sì, questa cosa è un po'. Anche io l'ho sentita, l'ha detta il Corriere. Ma forse non l'ha capita bene il giornalista. Ma sì, forse dice mi sposto da solo, ma spero il treno. Ah, cioè, appunto, insomma. Milano, Roma. Comunque, alla scorta tronca. Ma perché questa curiosità, secondo te, questo ascoltatore? Perché l'ascoltatore pensa che i dipendenti toccati potrebbero arrabbiarsi. Ha subito collegato. Vabbè, mamma mia, mi sembra eccessiva come preoccupazione, devo dire la verità, perché Roma, come tante altre parti d'Italia, quando si tocca sul portafoglio il dipendente si arrabbia il dipendente. E si arrabbia, sì. Allora, caro Oscar, andiamo che ma, devi? No, io volevo sapere da te, ma tu vuoi mandare all'UNESCO tra i nomi che ci sono? Oddio, oggi sulla ma stampa. Ma devo scegliere proprio io? Ma no, Trutelli, Fassino, Giannini o Melandri, questi sono i candidati. Ma sono, allora, sono perché politici sempre? Io sposo scusa, sposo, ma perché? Il tuo. Cioè l'UNESCO, il patrimonio, cioè, una volta ogni decennio, cioè, rischia di apparire candidato alla guida dell'UNESCO, ma perché dobbiamo mandare solo politici? Cioè rischia di apparire, con tutto l'affetto, una lista di trombati. Cioè, nel senso, siccome non sono hai d'accordo. Più che fare dalla politica, ti mando all'UNESCO. Sono d'accordo. Allora, Fassino è come dire che perde le elezioni, però è nei nomi, quindi il primo. No, che è come dire, basta, la però, fine di una carriera politica, ti mando. Volevo all'UNESCO sottolineare esattamente, venerare Alessandro, quello che hai sua appena santità, detto. Sua santità, vada in pace. Le trivellazioni, dopo la pubblicità, tra un attimo state con... Caro Oscar, sono le 8:37 minuti, siamo qui. Allora, oggi sai che sui giornali è pieno di scoppia la rivolta anti-trivelle di regioni ambientalisti. Sì, sì, sì. Io devo ammettere, io c'ho un bias, io ne ho scritto su Mattino Messaggero innumerevoli volte, quindi dichiaro prima, perché chi se ne occupa lo sa. Io ho scritto contro il fatto che comunque si decida per beghe politiche senza approfondire l'importanza economica della faccenda, perché non c'è un paese al mondo che abbia vincoli simili, non c'è. Quindi secondo te c'è il diritto di fare quelle che il ministro Guidi ha chiamato esplorazioni, cioè non sono trivellazioni ma esplorazioni preventive per capire insieme se in alcuni... a Davide Tabarelli di Nomis, ma abbiamo scritto molti articoli dicendo, in un paese che dipende al 90% del fabbisogno energetico dall'estero e che c'è questo 10% e che ha stimati centinaia di milioni di metri cubi di gas, di miliardi di metri cubi di gas da tirar fuori, potremmo aumentare questa quota e oltretutto, come insegna l'esperienza Norvegia, la Scozia e così via, le royalties per l'estrazione, come si vede nel caso della Basilicata, vanno anche nelle casse della regione. La Basilicata ci finanzia il reddito, esatto, il reddito. La Basilicata, per esempio, attraverso l'estrazione del petrolio, finanzia allora, il reddito di cittadinanza. Sì, però la Norvegia, che con la ricchezza petrolifera a largo delle sue coste e senza limiti delle 12 miglia, cioè dei 22 chilometri, che invece qua sono diventati così simbolici e pregnanti e significativi per tutti, la Norvegia è in testa a tutte le graduatorie ambientali. Il dato mondiali. Di fatto però che di fronte a queste concessioni a esplorare i fondali marini per vedere se c'è petrolio, alcune regioni, alcuni politici, i Verdi, però i Verdi fanno un po' il loro lavoro, sindaci, anche il sindaco per esempio delle isole Tremiti, Antonio Fentini, che è con noi, buongiorno sindaco Fentini. Buongiorno a voi. Anche lei si è detto contrario, perché coinvolge le isole Tremiti? Ci spieghi questa sperimentazione? Mi pare che sia su tutti i giornali, ne parlano ormai tutti quanti, che a circa 12 miglia dalle Tremiti vogliono cominciare a fare queste ricerche. Non è proprio come dice il ministro Guidi, che per il momento sono state autorizzate le ricerche, ma una volta che trovano il petrolio lo dovranno pure estrarre, no? Loro dicono che hanno autorizzato solo le ricerche. Lei dice se poi trovano il petrolio e poi non le estraggono. E che cosa vi inquieta? Cosa la inquieta in questo? Sicuramente già queste circospezioni che sono dei bombardamenti sui fondali, Ma non sono dei bombardamenti. Perché dobbiamo dire che sono dei bombardamenti? La tecnica è definita air gun sismico, secondo i Verdi, cioè queste. Lei è in grado di spiegare, ha usato la parola bombardamenti, nel senso che secondo lei che cosa fanno? Creano dei terremoti sott'acqua. No, ecco, vede, siccome la risposta a questa domanda è no, se lei crede che facciano delle rilevazioni tra virgolette geosismiche, non stiamo parlando di questo, perché una prospezione è un carotaggio. Io non so come, tanto allora in questo usiamo, se vogliamo essere classi dirigenti responsabili, non diciamo alla gente che usano chissà che cosa, però per carità, se lei ritiene di dover dire che sono bombardamenti, lo dica, io mi taccio, faccio giornalista. Beh, è scritto un po' dappertutto che sono dei bombardamenti sì. Per l'esplorazione di questi fondali, e comunque poi il carotaggio non è una trivellazione. Ma la trivellazione è, si intende per trivellazione quella per estrarre il fossile una volta identificato, una volta che si capisce in che strato sta, se si può fare, con che tecnica, per evitare che il terreno ceda. Se uno carota, mette un tubo, fa un buco e tira fuori il campione di quello che c'è dentro, non succede niente. Questo, insomma, però alcune tecniche, quelle definite di air gun sismico, sono le stesse tecniche che anche i Verdi dicono, sono tecniche che danneggiano il fondale marino, danneggiano anche non lo vogliono e quindi utilizzano l'argomento estremo, no? Come dire, comunque insomma lei non lo vuole, sindaco, cioè, teme che per le isole Tremiti possa essere che cosa, un danno ambientale, un danno al turismo, non ne vede un danno all'ambiente, un danno all'ambiente. Come il turismo lo si fa dove l'ambiente è sano, sarà un danno sicuramente per le Tremiti. Poi io dico una cosa, lo Stato ha fatto, forse noi siamo l'unico posto dove in Italia ci sono due parchi, una riserva marina protetta, l'altro parco del Gargano. Noi siamo due volte parco, ci vengono a fare le trivellazioni in casa, vengono a cercare il petrolio alle isole Tre. Mi sembra insomma non le fuori piace luogo, non le... fuori luogo. Io vogliamo salutare Oscar, anche chi probabilmente la penserà in maniera diversa, cioè Chicco Testa, buongiorno Chicco Testa, è caduta la linea, adesso lo recuperiamo. Però Oscar, cosa non ti piace della posizione del sindaco, che teme che possano fare qualcosa che non va bene nel proprio ambiente, e quindi cerca di difendere. Questo è il motivo di base per cui è così popolare il no, cioè noi siamo un paese in cui la paura prevale. Ripeto, la Norvegia ha la cima della graduatoria ambientale, che addirittura civile, con l'estrazione del petrolio e del gas in Mare del Nord alimenta un fondo sovrano, che è un esempio, perché invece che fare tutta spesa corrente non ne possono spendere più del 4% degli introiti annuali per il bilancio, per il resto va investito nel mondo. La Norvegia è al vertice dell'ecocompatibilità mondiale. Guarda che tra l'altro la Basilicata, che abbiamo citato, una regione nella quale ci sono anche molti comitati contro le trivellazioni, col fatto di aver utilizzato i soldi e i proventi, Basilicata politicamente è tra i firmatari e depositari dei quesiti, utilizza quei fondi per fare, tra virgolette, dare dei benefici ai cittadini, il reddito di cittadinanza. Ma Chicco Testa l'abbiamo recuperato? Chicco Testa, sono qua. L'argomentazione, Chicco Testa, della dipendenza per il 90%, diceva Oscar Giannino, dall'estero, dal punto di vista energetico dell'Italia, potrebbe essere un'argomentazione a favore invece del fatto di dire facciamo queste sperimentazioni intanto. No, perché è un'argomentazione razionale, quindi le argomentazioni razionali non vanno bene, non contano niente no. In questo paese. Io vorrei fare tre domande. La prima, come mai le Seychelles, non le isole Tremiti, le Seychelles hanno autorizzato le estrazioni petrolifere? Ha pescato Milan proprio con un esempio buono. Perché sono andato alle Seychelles, ma non è allora, che sono andato... No, io non sono andato alle Seychelles, non ci sono mai stato, sono notizie rintracciabili sui giornali. No. Seconda questione, come mai nel distretto turistico più importante d'Italia, vale a dire la costa romagnola, da Ravenna in avanti, a largo ci sono decine di estrazioni in corso e nessuno dei turisti della costa romagnola si è mai lamentato? Forse perché oltre qui il timore delle 12 miglia, cioè il sindaco dice mi vengono proprio nelle isole Tremiti, mi vengono sotto casa. Siccome le vedi dalla spiaggia, sono dentro. Terza cosa, io inviterei il sindaco delle Tremiti a fare una piccola ricerca che forse Giannino potrebbe fare su quali sono i distretti turistici più importanti d'Italia, no? E vedrà che in tutta Italia, dove si fanno i soldi con il turismo, si convive tranquillamente tra turismo, industria, eccetera, eccetera. Fate una ricerca sul lago di Garda, per esempio, e su che cosa c'è attorno al lago di Garda in termini di impianti industriali, impianti chimici, termocombustori, eccetera, eccetera. Quest'idea che sta passando nel mezzogiorno, per cui il turismo è nemico dell'industria, è nemico dell'attività economica, e si fa solo nei luoghi incontaminati, è una non delle altre cose per cui il mezzogiorno continuerà a morire. Allora io pongo una questione, la questione politica. Scusi, in Basilicata, lei lo sa quanto è la parte del terreno della Basilicata che è interessata da estrazioni petrolifere? Meno dello 0,1%. Allora, sono riusciti a far credere che le estrazioni petrolifere minacciano il parco del Pollino. Ma tra l'altro, Chicco Testa, ci ha raggiunto anche Peppe Di Bello, che è portavoce dei Notriv Basilicata. Buongiorno. Sentiamo Di Bello. La replica. Buongiorno. Ha sentito Chicco Testa? Dice: è vero, meno dello 0,1% del territorio della Basilicata. Scandalosamente falso. Neanche sui dati. Perché? No, non è una questione di mettersi d'accordo. La Val d'Agri sono 50 pozzi, un centro olio, un pozzo di reiniezione. La Val d'Agri, si veda sulla cartina geografica quanti comuni interessa. Poi abbiamo la Val Basendo, dove vengono lavorati e smaltiti i fanghi di estrazione petrolifera e acque di scarto, che è una superficie pari a 4 volte la terra dei fuochi, dove è stato vietato l'utilizzo delle acque ad uso irriguo o per qualsiasi però altro scopo. Le chiediamo poi questo di bello. Rossa, che sono 12 pozzi più un centro olio, poi abbiamo l'area di Pisticci con il primo centro olio che c'è stato della storia. Vabbè, ma percentualmente quanto territorio è? Allora, siamo al 45% della Basilicata. Come, 45% della Basilicata? 45%. Cioè dallo 0,1 al 45%. Viva l'Italia. Stiamo aspettando ben 18 permessi di terraferma che non sono stati bloccati nemmeno dei quesiti. Però allora un attimo, in attesa di chiarire se è lo 0 o meno dello 0,1 o il 45%, lo chiariamo tra un attimo, ma chiarirlo, insomma, sono posizioni ben contrastanti. Di Bello, almeno, che naturalmente significano come sempre l'impossibilità di un dibattito pubblico in Italia. Di Bello, intanto mi offro volontario da cicerone a chiunque voglia venire. La domanda è questa: il fatto che la regione Basilicata abbia annunciato utilizziamo quei proventi per fare il reddito di cittadinanza, quindi dare un beneficio ai portafogli dei cittadini della regione, è un principio che le piace? Guardi, quel reddito è stato dato, dovrà essere dato perché ancora non l'hanno fatto, togliendo le card carburanti a tutti i lucani. Io lo ritengo un fatto nobile perché magari finiva pure a chi aveva un reddito superiore ai 100.000 euro l'anno, è giusto che venga dato a chi non ha proprio reddito. Tuttavia io credo che vada fatta aperta una discussione franca, ma davvero senza steccati ideologici, sulla questione saturazione, perché noi abbiamo dimostrato allo Stato Nazione di aver già dato e di continuare a dare, però oltre certi limiti non è possibile. Però insomma, mi pare di capire che il principio non le pare positivo comunque di investire. Dire una cosa, noi diamo acqua ad uso umano e potabile a Puglia, Campania e parte della Calabria. Se noi mettiamo a rischio il bene pubblico per eccellenza, l'oro blu, noi abbiamo un problema serio che interessa sull'acqua. Vabbè, qua Chicco Testa, intanto dobbiamo metterci d'accordo sulle cifre, non so. Mi offro volontario, Chicco Testa, com'è qua la questione? Allora, guarda, intanto io la Basilicata la conosco bene, ho anche avuto una casa in Basilicata, esattamente nel parco del Pollino. Secondo i dati, sono quelli pubblicati dal Ministero, dire che il 45% del territorio della Basilicata è interessato alle stazioni petrolifere è già l'esagerazione super massima, ma quello che a me dispiace, collego un altro caso, avrete letto in molti ieri l'articolo di Mieli relativo Xylella. Giannino lo citava ieri. La questione della Xylella, dove vengono perseguitati dalla magistratura gli scienziati che cercano di risolvere il problema mettendo insieme teorie complottistiche, eccetera, eccetera. La questione della TAP, eccetera, eccetera. Verrebbe da dire, se io non avessi veramente a cuore l'Italia e il Meridione, verrebbe da dire arrangiatevi, perché questa mentalità completamente antieconomica, antiindustriale, eccetera, eccetera, che continua ad allineare in grandi parti, nel Mezzogiorno si pongono problemi che nel resto d'Italia nemmeno si pongono, capisci? Sì. Però io vorrei capire anche introdurre la questione politica. Il sindaco Fentini è ancora con noi. Sindaco, il fatto, lei di che partito è? Cioè centro-sinistra, centro-destra, ci aiuti a capire. Fentini. Abbiamo fatto una lista civica, perché non apparteniamo a nessun partito. Vabbè, centrodestra, centrosinistra più o meno. Centrosinistra. Lo dice con scarsa convinzione. Come se fossimo un interrogatorio della polizia giudiziaria. No, noi abbiamo fiducia sia nel governo che nella nostra regione, nel nostro presidente, che possa fare qualcosa. Beh, più nel presidente della regione che nel governo. Ecco, era l'imbarazzo a dirlo, perché il problema è che le guide del governo del sud, tutte PD, sono tutte lancia in resta contro il governo del PD. Avrà più fiducia nel presidente della regione che nel governo, visto che sono contrapposti su questo. Perché? Beh, mi sembra come la regione Puglia non è di centrodestra, è di centrosinistra. No, ho capito, ma è contrapposta al che governo, tutti no? I leader del PD alla testa delle regioni di tutto il sud sono i depositari dei quesiti contro il governo sulla linea energetica, sulle due questioni. Certo. Chi decide? Perché non volete che nel titolo quinto ci sia un riaccentramento delle decisioni strategiche energetiche. B, nel merito, perché non volete le ricerche e l'estrazione di risorse fossili. No, perché fossili. Lei ha detto ho fiducia sia nella regione che nel governo, ma il governo le vuole le trivelle, voglio dire, brutalizziamo così. Non mi ha detto che quando uno si possono anche ritirare queste cose. Ecco, ha fiducia nel fatto che la regione e le regioni possano portare avanti questa battaglia. Chico Testa, perché politicamente però si assiste al fatto che ci sono delle regioni anche di centrosinistra contro il governo adesso? È stata gestita male, questo almeno si può dire. Ma perché il vero oggetto dello scontro non sono le trivelle sono lo specchietto per le allodole. Esatto. Il vero oggetto dello scontro è il cambio di competenze, cioè il fatto che lo Stato si riappropria di competenze che le regioni hanno mostrato di non saper gestire, accumulando ritardi, incapacità di decidere, eccetera, eccetera. Dopo anni che diciamo che è necessario cambiare il titolo quinto della Costituzione, perché evidentemente ci sono interessi nazionali e opere strategiche che hanno bisogno di essere fatte e non possono passare attraverso le forche caudine delle regioni, guardate la questione TAP. Mettiamo insieme un accordo internazionale per portare miliardi di metri cubi di gas in Italia e restiamo bloccati per mesi e mesi e mesi per l'opposizione della regione Puglia, la quale dice no, ma bisogna spostarlo di qua, di su, di giù, eccetera, eccetera. Guardate quanto tempo ci abbiamo messo a fare la variante di valico, guardate l'alta velocità. No, ma è un paese che muore. È un paese bloccato su invece questo. I caicchi regionali vogliono tenersi le loro competenze e il loro potere. Non gliene frega niente che si crei lavoro, occupazione, investimenti. Sì. Eccetera, tant'è che ripeto, se parlate col presidente del consiglio della regione Basilicata, la Corazza, delegato dal presidente della regione alle questioni referendari, spiega con chiarezza che per la Basilicata la questione è solo le competenze. Mica noi vogliamo rinunciare alle royalties annuali che sono 1,5 miliardi in 10 anni per la Basilicata, non proprio 4 euro, eccetera eccetera. Quindi la questione, pur di non decidere insieme chi deve decidere, buttiamo a mare tutto quello che possiamo fare per aumentare un po' l'indipendenza energetica del paese, raccontando alla gente che devasteremo con sismi artificiali i fondali marini, faremo stragi di pesci, fesserie. Tra l'altro su questo ci ha chiamato un geologo, mi dico Mauro da Firenze, buongiorno Mauro, è geologo lei? Sì, buongiorno, sono qui a Firenze, mi sono laureato a Firenze quasi 50 anni fa. E ho vissuto per 42 anni in quasi tutti i paesi petroliferi, nella ricerca, produzione. Quindi lei è un devastatore dell'ambiente, insomma. No. No, spieghiamo. Sono un petroliere con la P minuscola, che vorrebbe parlare dal punto di vista tecnico, esclusivamente. Esatto. Non so. Ce lo dica però in 40 secondi, per cortesia, perché stiamo chiudendo, certamente, Mauro. Certamente. Allora, prima di tutto, quando si parla di trivelle, sembra che devono arrivare camion interi o navi pieni di trivelle che si installano sia sul territorio che in mare. Invece, come sa anche bene Chico Testa, prima che si faccia un pozzo, si arrivi a perforare un pozzo, passano anni, perché prima bisogna fare tutto uno studio geologico, poi fare la sismica, ecco, tutti, e poi finalmente dopo 2 o 3 anni arrivare a fare il primo pozzo esplorativo. Dopo il primo pozzo esplorativo bisogna aspettare almeno un altro anno o due per fare tutti gli studi, mettere insieme tutti i dati e fare un pozzo di appraisal. Dopodiché bisogna vedere se va tutto bene, se ne fa un altro. Però si fermi qui, Mauro, perché abbiamo detto 30 secondi e ci sta facendo la storia, che è affascinantissima. Purtroppo i tempi radiofonici sono una cosa incompatibile. Comunque, un paese che deciderà, come sempre, senza dibattito, per beghe politiche interne alla sinistra italiana, tutte interne a un partito. Questo è un po' così, è un po' così. Le beghe politiche che sopravanzano le tesi di merito, di merito. Ci dobbiamo fermare, caro Oscar. Venerabile. Ci troviamo domani. Cardinale, a domani.